dall'esterno era praticamente impossibile, nel senso che sono delle operazioni molto complesse anche da un punto di vista contrattuale. Ho letto in mano tutte le carte, quindi tutti i pezzi, le singole componenti dei contratti, e allora riesce a fare una costruzione di un certo tipo. Se non hai in mano tutto e dall'esterno, se evidentemente i dirigenti, i funzionari non danno le carte, non possono evidentemente riceverne in automatico. Se appunto non vengono dati tutti i documenti, è praticamente impossibile dall'esterno costruire esattamente, ricostruire esattamente l'operazione e contabilizzarla esattamente, perché la cosa che ha chiarita e forse aiuta a capire la situazione è che le operazioni erano evidentemente contabilizzate nei sistemi contabili della banca, tant'è che anche la stessa Banca Italia le aveva esaminate, ma mancando un pezzo i precedenti criteri di stabilizzazione risultavano tra virgolette corretti. Una volta che salta fuori il pezzo, a questo punto deve essere modificato anche il criterio di contabilizzazione. Se lo immaginava che di trovare tanta robaccia sotto il tappeto? Così tanta? Allora, io mi immaginavo di trovare dei problemi anche piuttosto seri, perché sono arrivato attrezzato a questa nuova sfida professionale. Francamente gli ultimi fatti, le ultime situazioni non me l'aspettavo. Nemmeno lei, che non è proprio una no. demi-vierge, come dicono in francese, una mezza vergine, insomma, sapeva che sarebbe arrivato, no? Proprio non era però non così, diciamo. Cioè, non era un pranzo di gala, rimettere al posto Monte dei Paschi, però, diciamo, no. Un'indigestione così forte non la immaginava? No, mi aspettavo qualcosa di un po' meno pesante. Ma non sarebbe un dramma se anche per un periodo limitato lo Stato entrasse con una quota, no? Nel senso, è già successo anche all'estero. Ma diciamo che da un punto di vista concettuale non è un dramma, poi da un punto di vista aziendale chiaramente l'obiettivo... Ma per lei sarebbe una sconfitta, sarebbe una sconfitta se il Tesoro entrasse? Ma diciamo, sconfitta è una parola grossa, perché poi sa... un piano di rilancio, di risanamento e di rilancio di una banca delle dimensioni del Monte dei Paschi si misura alla fine. Però diciamo che noi lavoriamo per evitarlo, poi se dovesse succedere sarà una di quelle cose di cui prendiamo atto e andiamo avanti. L'obiettivo finale è quello di riportare la banca autonoma, sia da un punto di vista patrimoniale, finanziario che economico, in un orizzonte temporale che non è certamente un anno, ma però diciamo non sarebbe non è quello che volete, ma non sarebbe un dramma? I drammi io non ne vedo, i drammi sono di altro tipo, ecco, se vogliamo dirla così. Mm-mm.